La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 25 secondi, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre dell'ascolto in diretto in podcast, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. E la trasmissione di oggi ha due casi segnalati da ascoltatori e un ospite invece per una vicenda che racchiude un classico italiano, però bisogna tornarci sopra perché stiamo parlando di un'impresa che va bene, è avanzatissima come tecnologie, come generazione di cassa, come ordini che prende in tutto il mondo e così via. Quindi voi direte, cacchio, un campione italiano, di quelli di cui parla sempre giustamente con orgoglio il Presidente del Consiglio, magari almeno per questo tipo di impresa i problemi italiani che riguardano tutte le altre imprese, cioè l'amministrazione pubblica tardigrada, la burocrazia e così via, magari per loro valgono meno. E invece, siccome gli altri due casi poi ve li descrivo leggendo le loro lettere, perché preferiscono, non, come capirete dalle vicende che raccontano, non sono certi di, con la voce di sostenere il racconto, e sono casi diversi. Invece non stiamo parlando in quel caso di grandi imprese affermate, stiamo parlando di imprenditori che normalmente si trovano alle prese con guai di fronte ai quali poi non ce la fanno e però sono disperati. E invece questo problema, adesso ci facciamo raccontare, se riguarda solo le piccole imprese italiane, gli artigiani, i commercianti, le imprese che hanno pochissimi milioni di fatturato e così via, cioè quelle di cui molti poi dicono, beh ragazzi, dopo tanti anni di crisi c'è una selezione darwiniana e anche un bene per certi versi, certo per certi versi. Ma vediamo se invece il problema riguarda invece e in che misura anche grandi aziende italiane, insomma aziende che continuano a crescere con successo, visto che sono sulla frontiera avanzata dell'innovazione. E in questo caso, tra l'altro rilanciato oggi, viene rilanciato periodicamente, per così dire, dai quotidiani nazionali, oggi è rilanciato dalla stampa, è di un'azienda che nasce 12 anni fa da un gruppo di ingegneri che lasciano la Philips, quindi è un colosso, una multinazionale nel settore elettronico, diciamo, dei primi tempi dell'elettronica, poi declinato a propria volta di fronte alle innovazioni, e danno vita a un'impresa in Italia. Siamo nell'ambito dell'automazione, cioè nella realizzazione di apparati elettromeccanici molto avanzati al servizio di impianti e lavorazioni molto avanzate, cioè per capirci per esempio fanno automazione su misura per muovere i grandi telescopi oppure per gestire apparati elevatori in complessi edilizi molto alti e così via. Cioè stiamo parlando di un'azienda la cui specialità è quella di realizzare progetti nell'ambito dell'automazione, non solo dell'automazione di linea seriale per così dire, ma soprattutto con specifiche ad hoc da grandi committenti internazionali. Ecco, questa azienda si chiama Phase Motion Control ed è con noi l'amministratore delegato di questa azienda che insieme ad alcuni suoi colleghi appunto 12 anni fa la fece nascere uscendo da Philips. Si chiama Marco Venturini, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, ci dice quanto siete cresciuti negli ultimi due anni in cui le aziende italiane facevano i conti con una domanda interna iperdeclinante e un po' di traino del commercio estero, ma per il resto chi lavorava solo sul mercato italiano continuava a piangere. Voi quanto siete cresciuti invece? Ma guardi, noi dalla fondazione siamo sempre cresciuti, tutti gli anni, alcuni anni di più, tipo il 20-30%, alcuni anni del 10 o del 5, negli anni della crisi un po' meno, ma non ci siamo mai fermati. Quindi la nostra crescita non si è mai interrotta, è stata organica, reinvestendo gli utili di quello che facevamo e creando sempre nuove tecnologie. Per essere ben chiari, noi siamo una società altamente dedicata alla tecnologia e alla progettazione. Noi mettiamo in cantiere e vendiamo 3 o 4 nuove tipologie di servomotore al mese, non all'anno. Al mese? Avendo automatizzato tutto un processo di progettazione e di sviluppo che consente di fabbricare questo genere, di inventare e fabbricare questo genere di cose. Per essere un po' più preciso rispetto a quello che lei diceva, diciamo che noi facciamo i muscoli dei robot, no? Esatto. Facciamo l'organo fisico che però traduce il pensiero del computer in un'azione fisica. Però Allora, uno avrebbe l'idea che di fronte a un campione internazionale di queste dimensioni si spalancano le porte in Italia e tutti i problemi si risolvono, o no? Beh, non è proprio così. In realtà noi, per nostra fortuna, lavoriamo in campo internazionale con aziende di vario genere o istituzioni di ricerca che hanno degli scopi ben precisi, che sono quelli di produrre dei beni, di fare dei servizi, di rispettare certe scadenze. Però alle volte, cioè una volta sola, ci è capitato di avere a che fare invece col mondo dell'amministrazione pubblica. Mm. E qual è il problema? Le aziende crescono, o almeno sarebbe bello che crescessero. Per crescere hanno bisogno di spazi. Noi che siamo partiti dalla proverbiale garage tipo Apple, ma era più piccolo il nostro perché noi siamo in Italia, quindi abbiamo degli spazi più ristretti, non si poteva stare in piedi. Sì, ma infatti era un sobpalco, per cui non si poteva stare eretti, bisognava stare curvi su quello che allora era un tecnigrafo. Vabbè, parte degli elementi di colore. È chiaro che un'azienda come la nostra ogni 2 o 3 anni o 4 si è trovata a fare un trasloco, andando in posti progressivamente più grandi, più grandi, più grandi. Tra l'altro abbiamo fondato un'azienda in Cina una 15ina d'anni fa e anche questa ha avuto la stessa storia, no? È nata da un prato verde, come si dice in inglese, greenfield, e poi è cresciuta. Nel 2008 arriviamo a un punto di congiunzione dove ci rendiamo conto che per l'ennesima volta dovremo traslocare, ma non troviamo niente di adatto perché cominciamo ad avere esigenze anche importanti. Per intenderci, le nostre produzioni sono anche oggetti piuttosto grossi e pesanti. Mm. Noi abbiamo fatto un motore da 16 metri di diametro, oggi stiamo progettando uno per il più grande telescopio del mondo, che avrà 64 metri di diametro. 64 metri di diametro. E sarà certamente il più grande secondo motore mai realizzato. Mm. Ma oggi come oggi abbiamo appena finito la progettazione di motori per funivie, che eliminano tutta la parte riduzione meccanica, olio, ingranaggi e azionano direttamente la ruota delle funivie. E puoi immaginare, questa è una macchina pesante, pesa una dozzina di tonnellate. Quindi abbiamo anche certe esigenze di spazio fisico, di superficie, per mettere i macchinari, di superficie, di logistica. Benissimo. Non l'abbiamo trovato, abbiamo pensato, vediamo di costruirlo. Infatti nel 2008 abbiamo comprato un terreno a Genova, dove noi siamo un'azienda di Genova, un terreno che era poverino, molto sfortunato, perché era una vecchia discarica. Voi sapete che tra l'altro Genova è la città delle alluvioni, in parte legata alla cattiva amministrazione passata, perché molti dei fiumi o dei torrenti che attraversano la città sono stati, in tempi storici, tombinati cioè, e cementati. Infilati sotto, cementati, e sopra ci hanno messo delle cose. Anche in questo caso la valletta che abbiamo comprato avrebbe dovuto avere lo stesso destino. Avevano tombinato il rio, ricoperto la valletta con dei detriti di demolizioni del dopoguerra, e lo speculatore che aveva fatto tutto questo pensava di costruirci tante casette. Poi è fallito e la valletta è rimasta abbandonata per anni, anni, anni, con condizioni di dissesto totale e di rischio idrogeologico. Noi abbiamo detto, bene, mettiamo a posto la valletta, ritiriamo fuori il fiume, gli facciamo un bel canale di gronda, facciamo una terra di accesso, consolidiamo il terrapieno e ci costruiamo sopra una sede fatta bene, quindi in classe A+, addirittura avevamo pensato, che sarebbe stata la prima in Italia autosufficiente energeticamente, come si dovrebbero fare le cose a livello internazionale. Se tutto questo avveniva, in che anno? Era l'anno 2008. Allora, nello stesso anno, incidentalmente, questo è un caso, ma un caso interessante, anche in Cina compriamo un terreno per costruire una sede. La conclusione, in due parole, è semplice. In Cina, in 40 giorni è andata l'autorizzazione, in un anno l'edificio era costruito, tra l'altro dallo stesso architetto italiano, un ragazzo italiano bravissimo che aveva progettato anche il sito di Genova, e oggi ci lavorano 700 persone. Da noi siamo sempre lì. Cioè è passato un anno dalla richiesta al rilascio delle autorizzazioni all'avvio dello stabilimento? No, non ci siamo capiti. Le autorizzazioni sono arrivate in 40 giorni. Poi ci è voluto un anno per fare la fabbrica. Sì, 40 giorni. Vabbè, lasciamo stare. Quella è una dittatura, è un altro mondo. Nessuno pretende 40 giorni, ci mancherebbe altro. Forse 8 anni è un po' tanto. L'intervallo temporale delle decisioni economiche, come quelle monetarie in Cina, cammina sulla punta delle baionette, come è noto, ed è una cosa che non è possibile fare qua. Ecco, quindi, però. Infatti, quello nessuno pretenderebbe di averlo in 40 giorni. Però 8 anni dopo noi siamo ancora lì con la valle coperta di erbacce e non siamo arrivati da nessuna parte. E tra l'altro con delle difficoltà operative bestiali, perché a questo punto siamo suddivisi in 5 impianti sparpagliati per la città, camioncini che girano avanti e indietro, un disastro. Ma scusi, siccome le grandi amministrazioni comunali sostengono di aver introdotto da anni lo sportello unico per tutte le autorizzazioni amministrative di impresa, non era così con Genova? No, era così assolutamente. Ah. Infatti noi, ottimisticamente, chi le parla è un ingegnere, ho fatto un errore. Ho affrontato la cosa da ingegnere, ho detto vogliamo costruire, bene, facciamo una squadra di architetti e ingegneri e seguiamo le regole. Nulla di più sbagliato. In realtà bisognava fare una squadra di avvocati e avvocati e forse sarebbe andata diversamente. Comunque sia, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo cercato di seguire le regole e abbiamo scoperto che l'amministrazione aveva le carte disordinate, diciamo così, perché c'è un piano di bacino che si sovrappone a un piano regolatore, ma naturalmente i due piani non coincidono, evidentemente gli enti non si parlano. Allora c'erano anche le province posseggono i fiumi, la regione possiede il bacino, cioè la pendenza, il comune le autorizzazioni, e tra tutti questi enti si rimpallano delle cartine che non coincidono mai. Ci hanno anche messo della buona volontà e le hanno corrette queste cose, ci hanno messo circa 3 anni. Nel frattempo noi andiamo allo sportello unico delle imprese, conferenza dei servizi, ci vogliono un po' di documenti, mettiamo a lavoro i consulenti, i tecnici per fare i documenti richiesti. 32 raccoglitori per 32 enti diversi. Ma scusi, adesso io di solito noi ci occupiamo delle conferenze dei servizi per opere pubbliche, classicamente quelle viarie o ferroviarie, e lì si capisce, per così dire, immediatamente che a quelle conferenze di servizio partecipano moltissimi soggetti, perché ovviamente lungo il tratto di un percorso stradale, autostradale, ferroviario, il susseguirsi dei diversi comuni, un tempo delle province, eccetera, eccetera, se oltre una certa comunità montana e così via, porta a una pluralità di soggetti tali per cui, stante la vecchia disciplina della conferenza dei servizi, virgola, di cui siamo in attesa attraverso i decreti delegati di attuazione del Rio, della riforma, eccetera, eccetera, è ovvio, non essendoci tempi ordinatori e anche perentori entro i quali in una prima fase potevano essere presentate le obiezioni sulle cosiddette opere addizionali che si aggiungevano agli oneri di realizzazione dell'opera, ecco che si bloccava tutto. Ma come diavolo invece, visto che voi eravate fuori Genova, è possibile che alla vostra conferenza di servizio dovessero partecipare 32 enti diversi? Che cacchio di enti erano? Guardi, la normativa è, l'ho scoperto, straordinariamente complessa, e nell'amministrazione pubblica non c'è nessuna punizione per chi le cose non le fa, esatto. Ma ce ne sono tantissime per chi le fa sbagliate. Per cui l'amministratore pubblico tipico, il funzionario, non il politico, è assolutamente incentivato a bloccare tutto, perché qualsiasi cosa lui faccia teme. Configura una possibile assunzione di responsabilità. Esattamente. Esattamente. E la cosa più divertente è che tutti questi signori si appellano a dire: io vorrei favorire questa iniziativa, ma non posso, perché se muovo qualcosa rischio di essere accusato di danno erariale. Lo so. Notare che bloccare tutte queste iniziative fa sì che l'erario non riceva nulla. Ma questo è secondario. Distruggere posti di lavoro. Ma questo è secondario, questo perché non riceve da lei, ma di fronte al funzionario l'ipotesi è che debba pagare lui. Il quindi posto, come esatto. Evidente. Che... Allora, e questi quindi... 32 enti si presentano alla conferenza dei servizi? No, fermi. Si dovevano presentare. Io ho fatto una piccola prepotenza. L'architetto mi ha detto: ci vado io alla conferenza dei servizi. E ho detto: no. Voglio venire a guardarli in faccia tutti questi 32 signori, no? Ma non, alla fine mi sono imposto e ci sono andato. Bene, alla conferenza dei servizi c'erano 3 persone. Il tavolo delle riunioni era desolantemente vuoto. E vabbè, ma ne mancavano solo 29. Su. Ne mancavano solo 29. Noi però i 32 raccoglitori li avevamo portati tutti, anche perché non si poteva mandare materiale in modo informato. Ma ci mancherebbe altro. Bisognava portarlo fisicamente. Certo. Era un camioncino circa. Dopo aver speso qualche anno in queste simpatiche cose, che succede? Lei sa che è venuta la crisi economica, quindi il mondo è crollato, i valori immobiliari sono anche molto scesi e l'industria delle costruzioni si è quasi fermata. Eh già. Cosa fa il Comune di Genova per risolvere questa situazione? uno dice accelera tutto e vi fa fare rapidamente. No. Esatto, hanno raddoppiato gli oneri di urbanizzazione per edifici industriali. Ah, ecco. Con il risultato che a Genova non è stato più costruito neanche uno spillo, già. Perché già in un posto dove è difficile costruire, quindi i costi di costruzione a Genova sono più alti che altrove. Se poi ne vogliamo risanare un territorio e quindi lavorare su un canale, su una strada, su un consolidamento di un disastro idrogeologico fatto anni fa, questi sono costi aggiuntivi. Noi eravamo un ente che avrebbe potuto farlo e fare quindi questo regalo alla comunità. No, oltre a questo ci chiedono un raddoppiamento dei costi di urbanizzazione, che a questo punto ci manda completamente fuori budget. Mercato e qualunque amministratore sensato questo lavoro non lo fa. Anche perché non è finanziabile. Se io vado da una banca a dire, sentite, voglio costruire un edificio che costa il doppio di quello che costerebbe a Novi Ligure, e loro mi dicono, ci fa piacere, caro ingegnere, che sia, lei sia ricco di suo, perché però non li chieda a noi, farà di sicuro. Esatto. E così. Ma in tutto questo, scusi, nell'Italia dell'economia relazionale, le faccio una domanda, mi risponde dopo l'interruzione tra un minuto, dedicato al traffico, ma a voi, cioè, nessuno mai dei politici genovesi della provincia, della regione, eccetera, eccetera, ha capito, si è avvicinato, ha detto, ma insomma, stante l'importanza di quello che fate, delle ricadute economiche, di quello che rappresentate, insomma, mi rendo disponibile a vedere, non di trasgredire la legge e non in cambio di nulla, ma insomma, vediamo di accelerare un po'. Non è mai capitato, mi risponde però tra un minuto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. La storia di un'azienda italiana alta tecnologia, servomotori molto avanzati, si è raccontato che insomma motori fino a 64 metri di diametro, se avete un'idea, Phase Motion Control, che nel 2008 ha bisogno di uno sviluppo ulteriore dei suoi stabilimenti, dei suoi insediamenti, e sceglie questo terreno fuori Genova, candidandosi anche a un intervento di tutela ecoambientale per il rio interrato, che rischia di produrre, come avviene regolarmente a Genova, poi alluvioni, e la descrizione di quello che è avvenuto da allora. Ma nessuno si è fatto vivo per dire, caro ingegner Venturini, sì, ma sono passati X anni, vediamo poi quello che si può fare. Mai? Ma allora, i politici locali, tutti in coro, dicono: noi vorremmo assolutamente fare qualcosa, ma la legge, i regolamenti, diciamo potenze esterne al di fuori del nostro controllo, ce lo rendono impossibile e finiremmo tutti in galera se mai violassimo queste cose. Tanto più, e questa è una cosa particolarmente velenosa, perché vorrebbe dire favorire un privato. Già. Questi hanno ancora la mentalità che esista nelle aziende un padrone delle ferriere. Sì. E che non va favorito, perché altrimenti... Ai tempi di Cronin. Più o meno sì. E questa sensazione purtroppo è ancora abbastanza diffusa, almeno in questa parte. Ma voi li avete assunti? Voi avete potuto fare quello che sarebbe stato possibile fare nell'insediamento a cui pensavate 8 anni fa? Oppure avete dovuto dislocarlo altrove, fuori Italia? Abbiamo dovuto dislocare un sacco di roba. Una gran quantità di produzione che avremmo molto preferito fare in Italia è finita esattamente fuori Liguria, ma in gran parte in Cina, e noti bene, senza nessunissimo vantaggio economico, anzi, ci costa di più farlo in Cina. Ah. E poi abbiamo la rottura di scatola che va trasportata in Italia con un mese di tempo di trasporto, quando il pezzo arriva probabilmente è sbagliato, lo dobbiamo buttare nella spazzatura, scontentiamo i clienti. In un prodotto tecnologico, pensare di fare la produzione offshore non ha senso. Va bene per le magliette. Non c'è dubbio, non stiamo parlando di lavorazioni da cui il margine di mercato esatto. Non esiste. Non è il basso. Fare in Cina è un crimine. È solo che io non posso farlo in Italia se non ho un tetto sotto cui mettere una macchina operatrice di alta qualità. Lei pensi che noi siamo ridotti in condizioni tali che quando non piove, alla mattina la fabbrica è talmente piena di roba che spostiamo il semilavorato fuori per poter lavorare e poi lo riportiamo sotto il tetto alla sera. Che certamente non è un esempio di efficienza. E quindi metà delle lavorazioni che avremmo potuto fare qua sono finite in Cina, con un costo superiore. E ovviamente questo spostando posti di lavoro, piangendo, dall'Italia alla Cina senza nessuna logica industriale. Ultima domanda le faccio prima di ringraziarlo. E pensate che questo progetto alla fine vada avanti, è bonito, oppure ci avete rinunciato e siete fermi? Ma allora, io ho un problema. Ogni volta, ogni anno, ogni mese ci si riprova. Si riprova a fare questo, si provano a cercare altri siti, fino a spostarsi fuori regione. Adesso il mondo è cambiato, no? Quindi negli ultimi anni Genova si è completamente deindustrializzata, quindi ci sono anche un sacco di altri siti che nel frattempo si sono svuotati. Piuttosto difficili, ciascuno con dei problemi, per esempio c'è il sito della Piaggio Aerospaziale, ne avrà sentito parlare, la Piaggio si è spostata a Villanova e c'è questa fabbrica che tra l'altro è di proprietà demaniale, completamente vuota. Quindi questa potrebbe essere un'opportunità, ne abbiamo discusso, però anche lì il pubblico è lentissimo, non si prende impegni, ha paura di fare dei danni e quindi fa il danno di tenere la fabbrica vuota, che appartiene a tutti noi e che potrebbe rendere. Quindi per dare una risposta, io continuo a provarci, l'azienda continua a provarci, però non avere nessuna certezza sui tempi è veramente controproducente. Allora, io credo che questa sia ancora la realtà italiana, non cambiata praticamente per nulla. Non c'è polemica diretta verso questo, verso quello. Però siccome l'enfasi quotidiana con cui ci annunciano che la rivoluzione italiana è in marcia, deve fare i conti con questa realtà. È complicato, lo so, Del Rio non può risolvere tutto dall'oggi al domani. Vedremo la riforma delle conferenze di servizio, dei procedimenti autorizzativi per la via, per la VAS, eccetera, eccetera. Però la condizione è questa. Io ringrazio particolarmente Venturini e tutti i suoi colleghi che continuano a credere ancora nell'Italia. Però quello che succede poi è, per esempio, dopo aver ringraziato Venturini, quello che è descritto in uno dei due altri casi che voglio citarvi. In questo caso, però, è una lettera di un Giorgio che ci scrive e che ci scrive in termini disperati, delusi dell'Italia. Ve la leggo brevemente. Sono emigrato negli USA da circa 20 anni, dove mi trovo benissimo. Diversi anni fa, io e mio fratello, con un paio di giovani ingegneri locali, abbiamo fondato una società di costruzioni in cui operiamo nella zona di Torino. Nessuno dei due lo fece con l'unico scopo di profitto, ma mio fratello era stato prepensionato a 57 anni dalla Fiat, dove era un dirigente, e io volevo mantenere rapporti con l'Italia e i miei genitori. Tra l'altro mio nipote era laureato in economia, magari ci poteva essere uno sviluppo generazionale. Per questo decidemmo appunto di fondare una società di costruzioni. So che in realtà, con l'occhio retrospettivo, ci dice Giorgio, queste motivazioni possono essere sbagliate nel business, ma un po' di cuore italiano mi era rimasto. Quindi cosa facciamo? Versiamo 1 milione di euro nella società e cominciamo. Acquisiamo diversi terreni, le banche, grazie alla mia lunga storia, ci finanziano altri svariati milioni. I tempi di attuazione però si rivelano infiniti, comuni che rispondono dopo mesi, tutto l'apparato comunale, regionale, statale, provinciale, un disastro. Mio fratello, che è amministratore delegato, aggiunge Giorgio, ha fatto i conti e ha iniziato prima a stringere le spese, poi a rinunciare naturalmente a tutti i nostri emolumenti, poiché tra INPS, ritenuta, aumento dell'aliquota, poiché sommata alla sua pensione da ex dirigente, il netto era meno del 20% di quanto la società ci avrebbe sborsato. Ma pazienza, non era per questo che l'avevamo fatto. Il lavoro c'era all'inizio, anche se gli investimenti si erano rivelati enormi e le responsabilità assunte di fronte ai ritardi della pubblica amministrazione iniziavano ad assumere orizzonti addirittura decennali. Iniziano ad arrivare le prime denunce anche penali per cose ridicole. Noi non facciamo nero, non abbiamo mai fatto nero, abbiamo tutto in regola, continuiamo a pagare i fornitori prima della scadenza, e se non che poi nella crisi tutto precipita. Il 15 dicembre di un certo anno mio padre muore a 89 anni, io vengo in Italia e rimango 10 giorni, l'anno scorso comunque, il 2015. Ci arrivano molti telegrammi di condoglianze, un giorno sono al postino, mia cognata va a prendere i telegrammi e insieme c'è una bustona dell'Agenzia delle Entrate. Il postino, che fu suo allievo essendo lei stata maestra, l'abbraccia, sa che ci porta qualche cosa di negativo. La leggiamo e capiamo, andando dal commercialista, che questi accertamenti mandati a fine anno per aumentare il volume dell'accertato non hanno niente a che fare in realtà con quello che noi non avremmo pagato, e però a quel punto per noi è il tracollo. Allora io riparto per gli USA, dico a mio fratello che voglio uscire dalla società, non voglio più avere a che fare con un sistema truffaldino, e mio fratello mi dice la stessa cosa. Ecco qual è la nostra ultima esperienza italiana. riflettiamoci su vicende come queste, cari ascoltatori. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina con me, Alessandro Milano, attenti a noi due.